Zoo di 105. Cappella, viaggio nello spazio con la navicella, tonda è molto alta, sembra una cappella. Sono un simpatico marziano, non sono bello, sì lo so, comunque vengo da lontano per ascoltare lo zoo. Bravo! Volevo estinguere gli umani, ma credo che vi lascerò almeno fino a domani ad ascoltare lo zoo. This is the zoo, only for you.